Forza, scendete presto, che l'autista ha fretta di ripartire. Finalmente siamo arrivati a Bibbona. Mentre io vado a controllare il giardino, queste valigie, fiondatele pure dentro. Subito! Ecco fatto! Vabbè, potevate anche prendermi un po' meno alla lettera. Il mio vecchio divano in veranda, che bello! L'ho sognato per tutto l'inverno. Ragazzi, qui lo dico e qui lo nego, quest'estate nel patio ci metto le radici. Giorgio, andiamo a vedere il Fahiro? Sì, e che siamo in India. No, andiamo in piscina. Ti butti come un elefante e nuoti come un cane, non mi pare proprio il caso. Andiamo a prendere il gelato. Così per levarvi le carie toccherà fare un muffo da un dentista. Non se ne parla nemmeno. No, andiamo a Luna Park. Guarda che siamo a Bibbona, non a Disneyland o sulla costa romagnola. Se vi va di farvi un giro sulle montagne russe, date pure un occhio allo spread. Piuttosto, mentre io mi appecorono sul sofà, mettetevi a fare i compiti. Ve li avranno dati, spero, e mi auguro che siano parecchi. Dite un po' quel che avete da fare. Io ho da fare matematica. Sì, ha parlato Henri Poincaré, che tra l'altro diceva: la matematica è l'arte di dare lo stesso nome a cose diverse. Io italiano. E studia a fondo l'italiano, che quando scrivi sembri un turcomanno. Lo sai che più di uno studente straniero su tre in Italia arriva al massimo alla licenza media? E questo perché non sanno leggere e scrivere bene, né in italiano né nella loro lingua madre. Io storia. Sei fortunato, qui in Toscana siamo fermi al 500. Insomma, usiamo i mezzi nuovi ma con la mentalità vecchia. In altre parole, se avessimo la bomba nucleare la lanceremmo con la catapulta. E tu, Giorgio, in cosa ti cimenterai? Scienze! Bravo, un bel dilemma. Con questo darwinismo imperante non so se siamo noi contenti di discendere dalle scimmie oppure le scimmie sono schifate dall'avere discendenti come noi. Tempo scaduto, è ora di mettersi a fare i compiti. Forza, non ve lo fate ripetere. No, i compiti no. E mentre voi siete al pigio e in silenzio, io mi godrò il mio show preferito. Ehi, Giorgio, guardala! Un aereo di scimmie è caduto in giardino. Come facciamo a fare i compiti? Scimmie, tornerete ad esserlo se i compiti non li fate! Giorgio, non riesco a fare i compiti. Un robot impazzito sta distruggendo le case dei vicini. Ma che robot è robot? Guarda che se non studi, l'intelligenza artificiale ci vorrà a te, perché quella naturale te la sarai bella e che giocata. Giorgio, gli elfi mi hanno nascosto le matite. E tu a quei nani dagli del puffone. Perfino il tribunale ha stabilito che non è ingiuria. Alessandro, non ti distrarre, torna sui libri. Lo farei, ma i vichinghi sono sbarcati sulla spiaggia distruggendo tutto. Saranno i soliti turisti scandinavi. Sembrano tanti angioletti con quei loro capelli biondi, ma alla prima birra si trasformano in barbari, quali erano nel 500. Ma non nel 1500 dove siamo fermi noi, nel 500 dopo Cristo dove evidentemente sono fermi loro. Giorgio, io le studierei le scienze, ma un UFO sta provando a catturarmi. Tranquillo, di solito cercano una memoria aliena attiva, ma tu di memoria ne hai poca e se anche l'avessi sarebbe toscana e passiva, visto che sei di qui e ti rifiuti di memorizzare le battute, quindi non preoccuparti. D'altra parte, siamo vicini a Pisa, saranno nei paraggi per via del professor Malanga. Giorgio, dall'UFO stanno scendendo delle lucertole giganti e ne sto contando, sono almeno 15. E dove sarebbero adesso queste lucertole? Qui, fuori dalla porta. No, grazie, non ci serve niente, abbiamo da finire i compiti. Maledetti scocciatori! E voi, rimettetevi piegati sui libri! Per colpa vostra, mi sono già perso la sbrenna anni 80 che Poggiarello baccaglia in ogni puntata, che è un leitmotiv dello show. Come del resto, lo è la fiamma ossidrica per lei film. Giorgio, Francesco ha preso la medicina per la tosse, però qualcosa è andato storto. Corporatissimo per verità! E tu, fagli ascoltare Giovanotti, vedrai come ritorna il pop. Ehi, ma che è tutto questo baccano? Giorgio, Alessandro, venite subito qua! Che diavolo state facendo pur di non fare i compiti? Stiamo costruendo una macchina per fare i compiti al posto nostro. Ma qualcosa non ha funzionato. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Cacchio, avete fatto decollare lo Space Shuttle! Poco male, così almeno gli americani potranno dire di essere stati per davvero sulla Luna. Ehi, ma questa sirena non è dei chips! Giorgio, per favore, mi lasci andare a sparare con la polizia ai banditi? Io alla polizia fo sparare a te se non ti rimetti a fare i compiti! Forza, mettiti sotto! Giorgio, posso fare una pausa? Perché il vicino mi ha sfidato a duello! Vedetevela a salsiccia e birra come Bud Spencer e Terence Hill! Digli che ci vediamo stasera alla palestra del Luna Park e che non porti Paganini! Giorgio, come faccio a concentrarmi se qui accanto c'è un concerto di musica classica? Male non ti farà, questa è la Sinfonia 40 di Mozart. Hai mai sentito parlare del Mozart Effect? Pare che la musica di Mozart renda più intelligenti. E visto come sei messo, sarebbe meglio se ne ascoltassi di più. Giorgio, ti vedo un po' stanco. Fatti un riposino. Io mica ho sonno. Ma quanto ho dormito? Ehi, voi quattro, che ci fate con i cappotti e le sciarpe? Siamo in estate e qui a Bibona c'è un caldo africano. Vero che si dice paralu caldo, paralu freddo, ma voi non siete mica dei Tuareg. Perché siamo andati al Polo Nord per riportare un pinguino. Ma a chi intendete darla a bere? Lo so benissimo che i pinguini non vivono al Polo Nord. Infatti, quando ce ne siamo accorti, siamo andati all'altro polo. Non per insistere, ma Giorgio e Leo sono stati scritturati da un circo. Non avevo dubbi che quei due fossero dei fenomeni da baraccone. Peccato che per avere un regolare contratto serva almeno la terza media. E i gemelli ancora non hanno finito le elementari, semmai le finiranno. Quindi, Giorgio, Leo, tornate subito qui e mettetevi a fare le lezioni. E se ti dico che abbiamo trovato il petrolio in giardino? Zitto, per carità! Se ci sentono gli americani, quelli vengono qui a esportarci a ogni costo la democrazia. E non con le urne, ma con le armi. D'altra parte si sa come sono. Portano il consumismo e lo chiamano progresso. Per cui tappa il buco e torna a scobbare. Ho provato a fare italiano, però Rabin Hood mi ha chiesto le mie matite. E per farsene cosa? Per scrivere allo sceriffo di Nottingham. Ma no, per usarle come frecce! 7.55 quarta! Smile, Martino. Look my hand. Go, Martino, vieni, minicuccio. Go down, I let. Giorgio, un famoso regista ha chiesto la nostra casa per il suo nuovo film. Ci siete voi come protagonisti? Allora digli che qui non si girano film dell'orrore. Qui si suda e si studia. Giorgio, degli strani gatti hanno fatto il nido sul tetto. Aspetta, lasciami andare a vedere. Dove sei, bel micino? Cucci, cucci, cucci. Per un pelo. Oh oh, Alessandro sta avendo il suo solito problemino. Oh no, un'altra volta! Sull'Appennino il lupo è protetto, ma qui in Maremma ai lupi gli tirano con lo schioppo. Mettiamolo a letto prima di ritrovarci con la casa circondata da una squadra di cinghialai, o peggio, da un gruppo di allevatori in attesa del risarcimento della regione. Che succede? Giorgio, Giorgio, dai, svegliati, andiamo sulla spiaggia. Eh? Ah, mi sono appisolato, mi sarò addormentato un attimo, che sarà mai? Ma li avete fatti i compiti? No, mi sono perso l'inseguimento! Adesso comunque arriva l'arresto. I chips mettevano sempre in gabbia qualcuno. Non mi ricordo però cosa stavo facendo prima di addormentarmi. Ah sì, mi leggevo un bel libro. Giorgio, ma che libro stavi leggendo? Dammelo un attimo. Non ho fatto i compiti perché, di Davide Calì e Benjamin Shaud, di Rizzoli. È un libro bellissimo, siamo d'accordo, ma non cambiate discorso, li avete fatti i compiti? Guarda che i compiti sei tu che li hai da fare, hai da passare l'esame di quinta elementare. E sbrigati, perché le scuole serali stanno per incominciare. Thank you.